scorrono le 21 orora qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e naturalmente www.ondarossa.info. Prova tecniche di trasmissione andrà avanti sino alle 22.30 circa, intorno alle 23 ci sarà 25 o'clock comunque in replica, quindi non sarà in diretta questa sera ma ci sarà una trasmissione del passato. Una serie di saluti: Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Gianluca Becuzzi, Antichrist di Omicidio, il quale ci tiene a ricordare, e lo faccio anch'io, la morte di Klaus Schulze, fondatore, tra i fondatori di Tangerine Dream e una ottima carriera solista. Saluto anche Like Wake, Alessandra qui a Roma. E poi Maya e Nicolò Locci in Sardegna, Francesco Cornello a Bergamo, Cortina d'Ampezzo Tabula Rasa, il medico della peste. Poi un'istituzione della musica dell'avanguardia italiana, Marco Milanesio di Disordine, Valerio Michetti della Grazia Obliqua e Face to Grace. Poi Lucia Cagliazza di Lupsi, un saluto anche a lei. Serena qui a Roma. Allora, noi si va ad iniziare e anche per questa sera ci ascolteremo New State of Flux e andiamo a quasi a concludere l'ascolto del primo CD. Ricordiamo che è una compilation che si divide appunto in due volumi ad appannaggio, nel senso che questa iniziativa è ad opera di Raffaele Pezzella attraverso una sussidiaria della Nespresso Sounds Group, la Reverse Alignment, di origine svedese. E quindi ci andremo ad ascoltare un artista tedesco dal nome B-Tong con Driving to Isolation. E poi un altro musicista sotterraneo olandese dal nome Freiband con The Smallest Cube. Anche per questa sera due passaggi da questa New State of Flux. Ordunque Bitong, il tedesco Bitong, Chris Sigdal il suo vero nome, abbastanza sconosciuto per quanto mi riguarda, leggermente più conosciuto invece il secondo, Freiband, artista olandese. Frans de Waarde, che ebbe comunque un minimo di notorietà negli anni passati come componente di un paio di progetti, Capot Music e Bequin. E dunque due tracce tra ambient e frequenza aliene, componenti che sovente si possono trovare nei vari compendi ideati da Raffaele Pezzella. La prossima settimana cominceremo a conoscere anche il secondo volume di questa lunga compilation. Saluto Massimo Mascheroni di Others, Flavio Derbecante di Noise Cluster e DB Pit, Mariolino Stancati, anche lui ha fatto un recentissimo album che presto ci ascolteremo qui proprio a Prove Tecniche di trasmissione. Veniamo al nostro Gianluca Becuzzi. Queste settimane ci siamo sollazzati con Deeper, il suo album dedicato alle cover di brani più o meno famosi degli anni passati. Una suntuosa, devo dire, opera di Becuzzi, che ha interpretato alla meglio una serie di brani, tra cui anche questo We Will Fall, il brano conclusivo, il più lungo, un vecchio brano degli Stooges. Oh, gee. Il talento e lo spessore di Gianluca Becuzzi si è riversato anche in queste ottime riproposizioni di vecchi brani, appunto degli anni 70, 80 e 90, questo Deeper. Ivi compresa questa We Will Fall degli Stooges, veramente reinterpretata in maniera magistrale dal nostro Becuzzi. Avrete notato pressoché che praticamente il brano gioca tutto sulla voce ed è strutturato tutto sulla voce di Becuzzi, con la parte finale ulteriormente arricchita dal violoncello di Cristiano Bocci, che ha collaborato in molti brani di questo album. Ce lo siamo praticamente sentito tutto in queste settimane, quindi non rimane che aspettare la prossima opera di questo valente musicista toscano. Un grosso abbraccio a Sisto Palombella, anche lui conoscenza dell'avanguardia italiana, con le sue peripezie musicali dell'accordion fisarmonica. E mentre sta andando ancora Becuzzi, che qui reinterpretava Warszawa di David Bowie, andiamo avanti con Deyson, Cristiano Deyson. Anche lui un riferimento delle avanguardie italiche. L'ultima fatica si chiama Magnetic Debris, anche qui due volumi. E questa sera iniziamo a conoscere la seconda porzione di questo lungo lavoro. Interno Camera d'Aria e Magneto Pose, i due brani che ho scelto per questa sera per Deyson. Thank you. E sulle note di Dayzon saluto anche Alessandra Trinity Bersiani, sempre della Grazia Obliqua. Una parentesi, dunque, come ho già detto, dedicata a Dayzon da questo Magnetic Debris volume 1 e 2. Queste note in sospensione, questi labirinti di rumorismo digitale ma anche elettroacustico. Il tutto esce con attraverso la Dissipatio di Nicola Quiriconi. Peraltro sono usciti anche lavori interessanti di Star Pillow e Ambasce, cose che chiaramente ci ascolteremo da queste parti in prospettiva. Cristiano Dayzon ormai è in pista da più di 20 anni ed ha collaborato con artisti del calibro di K.K. Null, Teo Teardo, Tarston Moore di Sonic Youth, Scan, She Retina Stimulans e molti molti altri. Anche per lui ci sarà un ulteriore passaggio la prossima settimana. Intanto sono le 21:38, questa è Prove Tecniche di trasmissione. La radio è quella, è Radio Onda Rossa, che modula sugli 87.9, ma naturalmente c'è anche la possibilità via web www.ondarossa.info. Si possono trovare anche sul sito della radio dei banner riguardanti alla nostra campagna di crowdfunding, 30 euro per 1000 ascoltatori, una campagna di sottoscrizione, di tesseramento che andrà avanti fino a settembre. E poi ricordiamo le due iniziative di Radio Onda Rossa, la festa proprio della radio che si terrà il 20, 21 e 22 maggio e l'appuntamento con i Pankoff a sottoscrizione per Radio Onda Rossa al Forte Prenestino il 3 giugno. Mi si chiedeva se si può ascoltare Magnetic Debris, ovviamente, come ormai si dovrebbe sapere. Anche Dayzon ha una pagina Bandcamp al pari della stessa Dissipatio, quindi chi volesse ascoltarselo prima può andare su queste due pagine. Piattaforma molto utile Bandcamp, c'è anche SoundCloud, ricordiamo, in generale, in questa circostanza credo solo Bandcamp per il nostro Dayzon. Per esempio anche la Lucesia, che ha prodotto Gianluca Becuzzi, ha a disposizione tutto il materiale da ascoltare e eventualmente da acquistare. Saluto anche Wurnus Eilin, storico progetto industrial piemontese. E noi andiamo avanti. E proprio dal almeno al 50%, cioè del Piemonte, anche qui in mezzo, sto parlando di Krishnamurti, una nuova avventura sonica a metà tra Lorenzo Abattuar e Giovanni Lami, talento sperimentale del quale presto ascolteremo parecchia della sua discografia, che mi è stata anche regalata per il mio compleanno di un mese fa, e ringrazio chi lo ha fatto. Dunque Giovanni Lami, Ravennate, insieme a Lorenzo Abattuar, anche lui ha suonato e suona credo tuttora con gli Wurnus Eilin. Un album che sfrutta anche delle strumentazioni, degli strumenti prettamente indiani, come si può anche intuire dal nome. Ascoltiamo la traccia di apertura dal nome Nothing Beyond the Mind. Krishnamurti con Lorenzo Abbattuara e Giovanni Lami. E hanno creato questo tappeto così particolare, queste atmosfere, questi scuri corridoi così austeri, creati attraverso un drone, diciamo, uno strumento che crea drone dal nome Shruti Box, di origine indiana per l'appunto. Album di 2 anni fa. L'artwork di Naresh Ran, presente veramente come il prezzemolo in tanti progetti qua e là. Curiosità che questo album esce attraverso la Ftarri, un'etichetta proveniente da Tokyo, quindi Giappone. Arrivato a salutare Alessandra qui a Roma e Nicola Locci, Hexagonal. E non solo, ormai lo conoscete tutti. Devo dire che, collocato dopo Dayson, direi che sta abbastanza bene questo Krishnamurti. Non dissimili le atmosfere in fondo. Tempo fa vi avevo anticipato, parlando di Marco Gronge, anche delle peripezie, in senso buono, del collettivo Zvuk, suono che in lingua serba, anzi significa suono in lingua serba, manca una virgola ma è così. Ebbene, questa è un'idea partorita da Marco Angelic, originario proprio di quelle parti, che ha raccolto intorno a questo progetto una serie di personaggi che, sfruttando WhatsApp, ha accumulato una variegata tipologia, diciamo, di acchiapparumori. Un processo che è durato parecchio tempo e che è appunto partorito questo Zvuk Collective Compilation 2019-2021. L'operazione finale di selezione è toccata al nostro amico Marcio Gronge. E quindi sono venuti fuori 16 testimonianze, 16 tracce molto molto interessanti. E quindi da questo Zvuk Collective, che esce per la Ephedrine, una attivissima etichetta qui di Roma, una net label per la precisione, la Ephedrina Net Label, ci ascoltiamo Catena di Trasmissione, Cicale Industrial e Distributore Automatico. We'll be right back. Boop boop boop.